Italia in controluce. È arrivato l'appuntamento con Italia in controluce, due edizioni al giorno, la pillola 6.30, questa invece più lunga alle 13.30, vi parla Daniele Biacchessi. Ci risiamo come lo scorso anno in Veneto, come nel 1994 in Piemonte, come sempre in Italia le prime piogge dopo il caldo estivo mettono in ginocchio intere regioni. Questa volta morti e dispersi in Liguria, nel Levante, alluvioni in Toscana, stato di allerta in Veneto, Friuli e Roma, fiumi di fango che si abbattono su piccolissimi borghi delle Cinque Terre. E allora torniamo indietro di un anno e ascoltiamo il secondo reportage, quello dedicato all'alluvione in Veneto nel 2010. Ieri abbiamo sentito la parte più economica, oggi invece affrontiamo il tema della memoria con Roberto Bonaldi. All'Istituto Farina di Vicenza il momento dell'intervallo appare come in tutte le scuole. Bisogna tornare indietro nel tempo, a novembre 2010, per assistere a una situazione fuori dal comune. Il fango invade l'edificio a causa dell'alluvione. In quel momento l'impegno prende il posto dell'intervallo e l'altruismo dei ragazzi si spinge anche fuori dalla scuola. Suor Roberta è coordinatrice del preside. Ho sicuramente un'immagine. Acqua dappertutto. Acqua dappertutto che però si è ritirata nel giro della giornata del primo novembre, con due genitori che ci davano una mano a perlustrare il territorio della scuola. L'immagine invece del 2 novembre è quella di una scuola animata, da circa 50 fra studenti e genitori, con scope, spazzole e badili per ripulire tutta la scuola. Una scuola che è stata effettivamente ripulita nel giro di due giorni e quindi il terzo giorno ha potuto riaprire i battenti. Ma la via era completamente disastrata. Bombardamento, post bombardamento, materiali fuori dalle case, un colore nero dappertutto, cioè proprio la sensazione di un ambiente lugubre. Per cui l'idea della scuola è stata proprio quella di dire: non possiamo tralasciare ciò che esiste fuori dall'ambiente scolastico. Abbiamo avuto su 260 ragazzi della scuola superiore 150 adesioni per una mattinata di volontariato a servizio della città, in collaborazione con la protezione civile. C'è ancora una continua richiesta da parte dei ragazzi di dire: aiutateci a fare qualcosa per gli altri. Veni Domine et noli tardare, il sente e il Domine l'urgenza. Mi sarei andato a Natale, ma adesso vo Vicenza. A un anno, il ricordo dell'alluvione in Veneto è un'immagine impressa nella memoria, un segno lasciato dall'acqua sui muri e anche un suono, o il suo opposto. Giancarlo Busato è titolare di una stamperia d'arte a Vicenza, finita sott'acqua. Più che suoni o rumori, il mio ricordo è il silenzio. Di entrare in stamperia dopo tutto quello che era successo quella notte, sembrava quasi, è simile a quel silenzio che si trova nelle giornate in inverno, no? Quando nevica, la stessa cosa, ed era un silenzio però che ti dava terrore, perché c'era quell'odore, quell'umidità, quelle sensazioni che solo vivendole credo rimangono indelebili. Io rappresento la terza generazione di questa stamperia d'arte e per me è stata una sfida, è una sfida ancora di più quando ho visto tutti i miei lavori perduti. Una stamperia d'arte in cui gli artisti vengono qui, creano le proprie matrici e si stampa foglio per foglio della matrice. Quindi capite bene il danno che ho subito quando ho visto tutti quei fogli di carta galleggiare, e adesso pian piano io vedo in questi mesi, come speravo, insomma c'è una piccola ripresa che questo mi fa guardare bene per il futuro. Che sia passato un anno mi fa felice, perché il tempo aiuta a dimenticare, quindi diventa una cosa passata. Io appunto dicevo, beh, meno contributi più lavoro, no? Cioè la mia soddisfazione, il mio mestiere è quello di lavorare. I contributi sono arrivati puntuali, pochi, ma tutto ciò che è arrivato, tutto ciò che arriva, ben venga. Però certo speravo più nel lavoro, nelle richieste. Adesso il lavoro che mi sta arrivando mi riempie di gioia. O ci abbattiamo o risorgiamo e meglio di prima. Con questo spirito, il padovano Rossano Galtarossa, campione azzurro di canottaggio, si è messo in gioco quando il circolo in cui si allena è stato allagato dal fiume Bacchiglione. Per l'atleta una vittoria su due fronti, con il ripristino degli impianti e poi con la qualificazione per la sua sesta Olimpiade, quella di Londra del 2012. e il rumore del fiume che si infrangeva sui pilastri della terrazza e faceva caponare la pelle. E il fiume lo vivo da molti anni, in quella veste lì non l'avevo mai visto, spero sinceramente non vederlo mai più. Non nascondo che c'è stato un attimo presi dallo sconforto da quel disastro, perché a Canotti di Padova, che è il mio circolo e anche il mio datore di lavoro, è stato messo in ginocchio, abbiamo rischiato di pensare alla chiusura perché i danni sono stati molto ingenti. Ho temuto che fosse un segnale del destino che mi faceva pensare che probabilmente la mia carriera sportiva poteva essere chiusa. Il giorno successivo all'alluvione ho indossato la muta e sono venuto dentro per primo per tentare di recuperare il recuperabile. Ho trovato nell'atrio della Canottieri un mio poster, una foto con la medaglia d'oro di Sydney 2000 salva, e allora riflettendo dentro di me ho pensato forse questo è il segnale vero. Siamo fieri di aver profuso energie in maniera infinita per aver riportato un circolo storico di nuovo disponibile alla tutta la città. Gli atleti già nei primi giorni venivano nelle ore di luce, spalavano un po' di fango e poi si mettevano ad approcciare i primi allenamenti. Loro sono stati uno stimolo anche per chi poteva avere qualche momento di scoramento e era un aiuto reciproco tra tutti noi. Da Lacuna al Calvario. Nella sua grande umanità il serafato volontario e Gaspalà, aiutà, salvà. L'alluvione è stata un banco di prova per i sindaci. In particolare, quali le impressioni dei primi cittadini più giovani? Enrico Rinuncini, nato nel 1977, è il sindaco di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Il principale suono che ho in mente è proprio l'acqua, che invece di scorrere naturalmente nel fiume, la sento scorrere nei campi. E essendo buio in quel momento, è stato anche il modo in cui io proprio ho compreso che aveva rotto l'argine, perché sentivo l'acqua scorrere nel campo, poi con attenzione mi sono accorto che c'era proprio l'acqua che stava cominciando ad avvicinarsi alle case. Il fatto di essere giovane sicuramente ha dato dei benefici. Durante l'emergenza, parlo in termini proprio di energia fisica, scavalcare i cancelli, abbattere sugli scuri delle finestre, a allertare i cittadini, e sia per i 3 giorni e le 3 notti senza dormire. L'altro aspetto invece, che un po' è stato anche per me uno stupore, vedere che i cittadini di 40, 50, 60 anni si siano comunque fidati di un sindaco giovane. Questo devo dire che è stata la più grande gratificazione in quei momenti così difficili. Sicuramente si prova ancora un grande senso di angoscia. I bimbi alla fine dell'anno scolastico scorso erano ancora preoccupati e i giorni di pioggia chiedevano ai propri insegnanti di poter chiamare i genitori per avere delle rassicurazioni. Ovvio che la preoccupazione è anche nei volti dei genitori, dei papà che vengono qui da me a ricevimento a chiedere quali siano in questo momento lo stato dei nostri argini e del nostro fiume. In Veneto c'è chi ha chiesto un aiuto per affrontare le paure lasciate dall'alluvione. Fiorenza Venturi è psicologa di SIPAP, Società Italiana Psicologi Area Professionale. Quando ci sono questi tipi di eventi, le persone mettono in atto dei comportamenti che possiamo definire comportamenti normali ad un evento eccezionale e hanno quindi bisogno di ritrovare le abitudini e ritrovare tutto quello che apparteneva alla loro vita prima dell'evento. Quindi ritrovare il benessere vuol dire riuscire a sperimentare ancora quelle esperienze di base e colmare quei bisogni appunto che sono stati spazzati via dall'alluvione. Quindi provare nuovamente quel senso di protezione quando si è all'interno delle proprie case, riuscire a costruire nuovamente quella continuità positiva che c'era nella vita prima dell'evento, riuscire ad allentare il controllo, perché molto spesso il fatto di non dormire di notte vuol dire che si ha un controllo eccessivo per paura appunto che succeda nuovamente quello che è successo. Questi tipi di reazioni sono normali soprattutto in questo periodo, magari che siamo in concomitanza anche con il primo anniversario dell'evento. Richieste di ascolto, parole di conforto, tra queste sempre una in primo piano. È l'emblema della forza su cui l'intera regione ha potuto contare per risollevarsi ed è il ricordo che Giannina Gaspari, di Vicenza, cita nella sua riflessione in versi su quello che è accaduto. Un canto nuovo adesso svola sulle vie della città. La parola è una sola, solidarietà. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Siamo su Facebook, la pagina, il gruppo, siamo su Twitter, rintracciabili via mail controluceradio24.it. Il nostro blog lo trovate su www.radio24.it. Torniamo domani 6:30 Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce.